Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati, è lunedì, Salva Danaio riprende, buona giornata da Deborah Rosciani. Allora, oggi con il Sole 24 Ore esce una nuova guida pratica come quelle che vi abbiamo già presentato nelle ultime settimane, ogni lunedì, questa è la quinta. Oggi ce n'è una che andrà a ruba, immaginiamo, perché riguarda i mutui e naturalmente ci sono tutti i suggerimenti utili per chi vuole ottenere le migliori condizioni di finanziamento per comprare la propria casa. La guida ha la consueta modalità interattiva con i lettori del Sole che per tutta la giornata possono fruire della consulenza di due esperti, peraltro sono due nomi molto noti anche per gli ascoltatori di Salva Danaio, il notaio Angelo Busani e Roberto Anedda di Mutui Online, che da stamattina stanno rispondendo, raccogliendo i vostri quesiti, e quesiti che per inviarli dovete collegarvi, come esattamente funzionato per le altre settimane, al sito del Sole 24 Ore, entrare nella sezione esperto mutui. Le risposte alle vostre domande le troverete da domani per qualche giorno sul Sole 24 Ore. Poi vi ricorderò ancora una volta la modalità pratica per interagire appunto con il sito del Sole, inviare i vostri quesiti sul finanziamento per l'acquisto della vostra casa. Noi però, Salva Danaio, come tema di approfondimento, abbiamo deciso di non fare la tradizionale puntata su che tipo di mutuo scegliere, sul tasso fisso, sul tasso variabile, perché ne abbiamo fatte tantissime, ma abbiamo scelto di parlare di un particolare aspetto legato alla sottoscrizione del mutuo, cioè le polizze assicurative legate a questo. Le banche che erogano il finanziamento per farci comprare la casa impongono queste polizze ai sottoscrittori, ma in realtà di obbligo non ne sussiste alcuno, e se non appunto quello della volontà della banca di tutelarsi. Sulla questione si è reso necessario un preciso chiarimento, questo è arrivato dall'ISVAP, che ha introdotto nuovi parametri di trasparenza e c'è tutto un preciso disciplinare che entrerà a regime a partire da dicembre. Allora noi stamattina parleremo di tutto questo. Naturalmente la polizza non è obbligatoria, è una facoltà da parte del contraente del mutuo, però è chiaro che è sempre bene tutelarsi per sé e per la propria famiglia qualora non si abbiano più le condizioni per poter onorare questo prestito. Insomma, ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione. Allora, stamattina noi di tutto questo parliamo con la nostra Chiara Bussi del Sole 24 Ore. Chiara, ciao. Buongiorno. Che ha proprio affrontato questo aspetto per questo speciale del Sole. E poi abbiamo richiamato di nuovo ad aiutarci la dottoressa Flavia Mazzarella, vice direttore generale dell'ISVAP. Dottoressa Mazzarella, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Già nostra consulente per la tematica caldissima dell'RC Auto qualche giorno fa, oggi parliamo di un altro tema molto caldo, perché praticamente negli ultimi anni, come abbiamo spesso raccontato, un numero crescente di famiglie si è indebitato per comprare la casa dei propri sogni, e allora c'è anche questa pratica diffusa, che non è molto corretta, da parte delle banche, che molto spesso fanno trovare questo contratto di assicurazione nella giornata del rogito. Io devo dire che è proprio quello che è capitato a me qualche anno fa, quando di mutui e finanziamenti capivo molto meno di adesso, e in quella giornata in cui uno firma il rogito, che non sa neanche in che posto si trova, perché è un atto, una giornata emotivamente parlando molto importante, e allora non ha molto il coraggio di dire alla banca guardi che io preferirei non firmare questa polizza perché voglio sceglierne una magari con il mio assicuratore di fiducia piuttosto che con un'altra compagnia. E siamo lì, si sottoscrive e non sappiamo bene quello che abbiamo fatto, per cui siccome è una situazione nella quale si sono probabilmente trovati molti, stamattina cercheremo di capire come ci si può tutelare da situazioni di questo tipo. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666, il numero invece per i vostri sms. La borsa, abbiamo già anticipato nel corso del giornale radio, oggi è piuttosto positiva. Noi tra l'altro approfondiremo questo argomento domani, l'argomento della decisione annunciata nel corso del fine settimana dalla Banca Centrale Cinese di permettere un maggiore tasso di fluttuazione dello yuan, sganciandolo di fatto dal cambio fisso nei confronti del dollaro, una notizia che ha permesso un avvio sprint per i mercati del vecchio continente. Adesso sono in rialzo di oltre un punto e mezzo Parigi e Francoforte, un po' meno Londra, più 0,9 Milano, più 0,78%. Yuan che è balzato in massimi del 2008 verso le altre divise, soprattutto verso il dollaro. Sul dollaro l'euro quota adesso 1,23,90. Un'ultima cosa prima di partire con il nostro argomento di approfondimento: Tango Bond. Oggi ricordo, questo lo devo a tutti i risparmiatori che sono ancora immersi In questa vicenda a cui abbiamo dedicato l'ennesima puntata venerdì scorso, c'è una nuova manifestazione stamattina presso l'ambasciata argentina di Piazza Esquilino a Roma. Fino alle 13 si intende protestare, lo fanno soprattutto coloro che non vogliono aderire a questa seconda offerta del governo argentino che si chiude domani, e quindi una nuova manifestazione di protesta. Peraltro c'è una cosa che avevamo, come dire, non confermato venerdì, perché non avevamo le premesse, non avevamo le notizie né le conferme. Pare che il governo argentino possa ulteriormente prorogare i termini dell'offerta di scambio in corso, e quindi ci costringerà di nuovo a tornare sull'argomento. Lasciamo la borsa, lasciamo i tango bond, andiamo ai temi di questa mattina. Al tema di stamattina ritorniamo a parlare di casa, di mutuo e delle polizze assicurative legate a questo. Quando si accende un mutuo, di norma, la banca richiede la stipula di una serie di assicurazioni che riguardano l'immobile oggetto del finanziamento o la tutela delle persone che lo hanno richiesto. L'assicurazione obbligatoria richiesta dalle banche è la polizza scoppio o incendio, che deve contenere un vincolo a favore della banca. In caso di sinistro, infatti, la compagnia assicurativa rimborsa una cifra pari al costo di ricostruzione dell'immobile ipotecato, che dovrebbe estinguere il debito con la banca. Si tratta di solito di una polizza con un importo modesto, proprio perché gli eventi coperti vengono considerati straordinari. Ma se i mutui sono di lunga durata, alcune banche possono pretendere il versamento anticipato per evitare l'insorgenza dei rischi. Sono invece facoltative la polizza vita o quella di invalidità permanente. In questi casi l'assicurazione versa gli indennizzi direttamente alla banca, saldando il credito residuo del mutuo. Generalmente i contratti assicurativi vengono stipulati per una durata pari a quella del mutuo e i costi pagati con un unico premio anticipato. Un fattore, quest'ultimo, che ha comportato non pochi problemi alla pratica della portabilità del mutuo. Nel caso di trasferimento del mutuo da una banca all'altra, infatti, il rischio è quello di perdere il premio relativo al periodo di assicurazione non goduto. Per questa ragione, unita alla scarsa trasparenza sui costi reali da sostenere, è sceso in campo l'ISVAP, l'Istituto di Vigilanza del Settore Assicurativo, che ha predisposto nuove regole che entreranno in vigore dal prossimo 1 dicembre. E noi stamattina le analizzeremo nel dettaglio. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Il numero verde lo potete utilizzare per intervenire in diretta, invece se volete scriverci lo potete fare al 349 238 6666. Chiara, prima di entrare, Chiara Bussi, collega del Sole 24 Ore, prima di entrare nel merito del tema assicurazioni legate al mutuo, un po' in termini generali ci vuoi raccontare che cosa prevede questa guida di questo lunedì? Perché le altre sono andate veramente bene, c'è stata una grande interazione da parte dei lettori che vi hanno scritto in moltissimi. Certo, nella guida pratica ai mutui che il Sole 24 Ore ha pubblicato oggi abbiamo passato in rassegna le offerte delle banche, con la possibilità di cambiare tasso, di mettere un tetto per proteggere il proprio mutuo dall'eccessiva fluttuazione dei tassi, e anche la possibilità prevista dalla legge Bersani di traslocare il mutuo presso un altro istituto attraverso la surroga. Abbiamo però esplorato un fronte che si rivela sempre più attuale. Al momento della scelta del mutuo, decisa la formula, elencate le spese di istruttoria e di perizia, l'impiegato della banca passa all'attacco, in genere consiglia una polizza assicurativa spesso abbinata allo sconto sullo spread. Le più comuni sono quelle incendio e scoppio, ma ci sono anche quelle multirischio, incendio, furto, rapina, responsabilità civile verso terzi, e quelle sulla vita, come quella temporanea caso morte, infortuni, malattia o se si perde un posto di lavoro. Il tema è, in sostanza, che la banca dice sono praticamente, almeno molte di queste, le più importanti, obbligatorie, ma non c'è scritto da nessuna parte che queste siano obbligatorie. Non c'è scritto da nessuna parte, infatti è facoltà del consumatore, del mutuatario, se decide di sottoscriverle o meno. Diciamo, è una possibilità di tutelarsi, quindi un mattoncino di sicurezza in più che viene aggiunto al proprio mutuo. Bisogna però sapere che hanno un costo. Infatti la formula di pagamento è, come si diceva nella presentazione, o un premio unico, quindi un una tantum, che può essere positivo, nel senso che non si maturano gli interessi, si paga una volta per tutte, bisogna però avere i soldi per poterlo fare. Certo. Altrimenti un'altra formula è poter spalmare questo premio durante l'intera durata del mutuo. Chiaramente la rata sale. Infatti il consiglio degli esperti è tenere d'occhio il piano di ammortamento, fare delle simulazioni e cercare di capire effettivamente qual è il costo costo reale di queste polizze che vengono consigliate. Lo ripetiamo, non sono obbligatorie, vengono consigliate al momento della stipula e del poi mutuo. Come ho detto anche prima, insomma, molto spesso ci ritroviamo questi contratti da firmare il giorno del rogito quando non siamo certo nelle condizioni emotive di poter dire no, guardi, grazie, cioè, magari qualcuno ha anche il coraggio di farlo, certo, sicuramente c'è l'effetto sorpresa. C'è l'effetto sorpresa che però è, insomma, non è molto corretto questo atteggiamento. Allora, adesso sono già pronti degli ascoltatori, però volevo sentire anche la dottoressa Mazzarella perché vorrei farmi anticipare qualche dettaglio in più rispetto a questo nuovo provvedimento che entrerà a regime a partire dal 1° dicembre di quest'anno. Che cosa cambierà in questo settore, dottoressa Mazzarella? Insomma, l'ISVAP che cosa ha rilevato anche in questi anni relativamente al comportamento da parte del settore bancario, che non è molto corretto quando si tratta di far sottoscrivere queste polizze, più che altro quando soprattutto c'è il conflitto di interessi e vende ovviamente, spinge per le polizze di casa propria? Ma guardi, noi abbiamo avuto necessità di osservare il mercato per un periodo, già nella relazione annuale dello scorso anno avevamo evidenziato un po' questo fenomeno molto particolare, soprattutto l'inconsapevolezza da parte del consumatore, di colui che sottoscrive il mutuo, anche delle polizze abbinate che sottoscrive. Ribadisco, come avete già correttamente detto, che non si tratta di coperture obbligatorie, ma sono a tutela dell'operazione in generale che riguarda il mutuo. Noi, osservando il mercato, ci siamo appunto convinti e resi conto del fatto che il livello provvigionale richiesto dal mercato era assolutamente fuori misura. Non abbiamo il potere per intervenire direttamente chiedendo un contenimento, di calmierare il livello provvigionale, ma siamo intervenuti su 3 livelli. Il primo è stato quello della trasparenza, imponendo alle banche di rendere noto, di consegnare un documento informativo nel quale sia noto il costo del premio e separatamente del livello di provvigioni, sia in forma percentuale che in valore assoluto. Questo permette al consumatore di capire che cosa sta pagando, per che cosa sta pagando, che cosa va a tutelare il proprio interesse e che cosa serve a remunerare la rete di vendita. Questo è il primo livello. Primo. Sì, il secondo è stato quello di chiedere e di imporre con un regolamento, quindi non più come autoregolamentazione, la restituzione del premio non goduto, incluse le provvigioni, in caso di estinzione o spostamento del mutuo presso un altro istituto. Questo a tutela della portabilità del mutuo. Il terzo livello è stato quello di, proprio in ottica di tutelare il conflitto di interesse, imporre alle banche di non svolgere nello stesso tempo diversi ruoli, quello di beneficiario, quello di contraente della polizza collettiva e quello di intermediario percependo provvigioni. Qual è stata la reazione del sistema bancario rispetto a tutto questo, dottoressa Mazzarella? Perché al momento sembra che questa piccola rivoluzione stia passando assolutamente sotto silenzio, poi magari vedremo da gennaio del prossimo anno cosa succederà. Ma naturalmente non abbiamo letto grandi proteste su tutti i giornali, però noi ne abbiamo contezza perché abbiamo ricevuto diverse telefonate, soprattutto da parte di chi su questo mercato è molto attivo. Il livello di preoccupazione è elevato perché questo regolamento, queste norme incidono in maniera significativa sull'operatività delle banche. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, oggi, come questa, abbiamo appreso questa buona abitudine da qualche lunedì a questa parte di presentare le guide operative del Sole 24 Ore che vi danno l'opportunità di interagire con gli esperti del quotidiano su determinati argomenti. Il tema scelto per la guida di questa settimana è il mutuo. Come scegliere quello giusto, tema che anche noi abbiamo affrontato tantissime volte. Potete inviare i vostri quesiti collegandovi al sito del Sole 24 Ore, entrando nella sezione www.ilsole24ore.com/esperto mutui e inviare appunto le vostre domande sui mutui, le condizioni finanziarie, il tema del notaio anche, che è molto importante. Le vostre domande sono prese in consegna ed analizzate e risposte da Angelo Busani, notaio appunto del Sole, e Roberto Anedda di Mutui Online, sono stati ospiti anche di Salvadanaio molto frequentemente. Le risposte alle vostre domande da domani le troverete per qualche giorno sul quotidiano. Noi oggi invece a Chiara Bussi e alla dottoressa Mazzarella, Flavia Mazzarella dell'ISVAP, vice direttore generale dell'ISVAP, stiamo rispondendo ad un aspetto specifico che riguarda la sottoscrizione di un mutuo, e cioè è vero che vanno sottoscritte anche contestualmente delle polizze a tutela ovviamente del contraente. Non c'è nessun obbligo attinente a questo, però molto spesso le banche lo fanno passare come un obbligo, ci fanno trovare questo contratto magari il giorno del rogito e noi non sappiamo esattamente quello che possiamo fare. Quindi stamattina stiamo cercando di darvi un po' di educazione su quelle che sono le nostre tutele in questo settore. Prendiamo ovviamente a spunto, come sempre, le domande dei nostri ascoltatori, cominciando con quella di Walter da Venezia, che ci rappresenta un po' il suo caso, e da questo suo caso poi analizzeremo anche altri aspetti. Walter, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Ci dica tutto. Allora, io ho stipulato un mutuo con l'Unicredit circa a cavallo fra il 2005 e il 2006, dove mi hanno venduto appunto un'assicurazione, un contratto di assicurazione come obbligatorio. Questo bisogna farlo assolutamente, perché non si discute. Peraltro, Walter, allora, mi scusi, molto spesso ovviamente la banca spinge, soprattutto quando il mutuo è piuttosto corposo, molto ampio, infatti, molto importante, infatti, magari il mutuo, molto il lungo. Il mutuo è importante, non tanto, la lunghezza non era 20 anni, ma era piuttosto importante la somma. Però appunto me l'hanno dato come obbligatorio. A questo punto io chiedo, se io vorrei fare prima due domande sostanzialmente, una inerente a questo, che sarebbe, se io volessi disdire questa assicurazione, perché l'assicurazione fra parentesi su incendio e eventi atmosferici, una cosa del genere, che la trovo veramente abbastanza così. Un po' esagerata anche, insomma, nelle tutele fissate. E poi, seconda domanda, quindi disdetta? Seconda? La possibilità di disdetta. La seconda, che è un po' meno inerente al tema, la portabilità del mutuo, la legge Bersani. Sì. Una volta che uno cambia da mutuo variabile a mutuo fisso, cioè lo può fare una volta sola nella storia del mutuo o più volte? Allora, Walter, guardi, per queste cose sulla portabilità si prenda la guida del sole. Comunque non è detto che si possa fare una sola volta, si può fare più volte, e la portabilità ha aperto proprio questa opportunità. Non è assolutamente fissata in una sola volta la possibilità di fare il cambio del mutuo. La disdetta, Chiara, volevi andare da te. No, tra l'altro io ho chiesto anche a Walter la questione dell'importo, perché è chiaro che la banca vuole tutelarsi. Certo. Cioè, voglio dire, abbiamo visto quello che è successo in questi 2 anni, certo, 3 anni, quante persone hanno perso il posto di lavoro e non sono state più nelle condizioni di pagare il mutuo. Certo. Quindi, voglio dire, l'assicurazione ha una sua ragionevolezza d'essere. Adesso non vogliamo fare ovviamente una trasmissione contro le banche. Il tema è le modalità di vendita, la modalità di distribuzione, non tanto l'importanza di avere una tutela contro eventi che nella vita possono capitare a tutti. Quindi magari certo, fissiamo certo anche un po' questi punti. È una doppia tutela da parte della banca e da parte del mutuatario. È vero però che le condizioni devono essere trasparenti e il mutuatario deve avere ampie possibilità di scelta per valutare al meglio la formula che più si sposa con le sue necessità. Il tema della disdetta tu l'hai affrontato. Sì, allora sicuramente bisogna sfatare un altro mito, nel senso che niente è irreversibile neppure in questo settore. È possibile, in base al codice delle assicurazioni private, tornare sui propri passi, ma solo entro 30 giorni dalla stipula. Bisogna inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno e spiegando le motivazioni che inducono a fare questo passo. Diciamo, ci sono alcuni, anche leggendo i vari forum sul miglior mutuo, che utilizzano questo strumento anche magari cercando di strappare migliori condizioni alla banca con uno sconto sullo spread e poi fanno marcia indietro. Certo, questo eticamente è discutibile, però si può fare. Però sta scritto nero su bianco, il mercato è il mercato. Dottoressa Mazzarella, allora, Chiara Bussi ci indicava la possibilità di fare la disdetta dalla polizza entro 30 giorni dalla sottoscrizione, però il nostro ascoltatore Walter dice, siccome ho scoperto che tutto sommato questa polizza non è obbligatoria, io lo scopro ora e vorrei fare marcia indietro adesso. Che suggerimento gli possiamo dare in merito a questo? Ma guardi, io devo fare una precisazione, adesso non cadiamo nella trappola opposta, cioè di pensare che siano stati tutti turlupinati, perché infatti è vero, dobbiamo sottolineare che non è una copertura obbligatoria, però questa copertura va vista anche come tutela del consumatore, perché giustamente, come lei ricordava, ci sono una serie di eventi imprevedibili e avversi e l'assicurazione serve proprio a questo. Quindi noi dobbiamo incidere non tanto adesso, dopo averlo ribadito, sulla questione dell'obbligatorietà, che non esiste, ma sulla trasparenza e la consapevolezza del consumatore quando sottoscrive queste coperture. Quindi deve essere messo nelle condizioni, con congruo anticipo, di sapere quali sono le coperture che gli vengono richieste dall'istituto che eroga il mutuo, capire qual è il costo di queste coperture, la durata della copertura, quali sono i suoi diritti, quali sono le condizioni delle coperture che vengono richieste, tanto da avere la possibilità di andare in giro e cercare, confrontare un po' le coperture per cercare quella che per lui è più vantaggiosa. Quindi diciamo che a Walter, prima proprio di, come dire, incaponirsi sul fatto di volerla disdire, magari che prenda in considerazione un po' meglio il fatto che, facendo le corna e non augurando niente di male a nessuno naturalmente, forse è bene che questa piccola copertura la si mantenga. Poi magari Walter prende in considerazione l'eventualità di cambiarla, anche lì, dottoressa Mazzarella, forse magari valutando un po' meglio le condizioni economiche può trovare qualcosa di più conveniente. In quel caso potrebbe fare un trasferimento di polizza. A questo punto penso che sia un'operazione, se dovesse trasferire il mutuo naturalmente questa copertura gli potrebbe andare dietro, ma se ho capito bene questo è un contratto sottoscritto nel 2005, quindi a distanza di 5 anni, a meno che non ci siano condizioni particolari. Ovviamente nel suo contratto bisogna riguardarsi il contratto, quindi Walter riguardi un po', riesamini un po' bene tutta la pratica e tutta l'istruttoria che l'ha accompagnata. Allora, tema surroga, Gianfranco da Milano, anche questo è proprio importante, perché il tema che sollecitava prima la dottoressa Mazzarella era proprio quello, anche insomma, della portabilità. Oggi il mercato si è aperto, possiamo trasferire il nostro mutuo in maniera molto più semplice rispetto al passato, quando era proprio pratica assolutamente impossibile, ma molto spesso le banche osteggiano la portabilità perché dicono: non posso farti il trasferimento, quindi non te lo posso avallare perché c'è la polizza attaccata, appiccicata, per cui questo rende impossibile appunto il trasferimento del mutuo. Sentiamo Gianfranco, buongiorno. Sì, buongiorno Deborah, buongiorno agli ospiti. Il mio punto era proprio questo: grazie alla legge Bersani e alla portabilità ho trasferito praticamente il mutuo, quello che rimaneva del mutuo, e direi che non è neanche una cifra esagerata visto il valore dell'immobile. Mm-hmm. Parlando in soldoni, ho trasferito 75.000 euro con la surroga da una banca ad un'altra che mi faceva un ottimo spread. Con la clausola che praticamente io dovevo sottoscrivere una polizza di non perdita di lavoro, ma infortunio permanente o altrimenti caso morte. Sì. Ecco, io voglio sottolineare che io ho già una mia polizza che pago oramai da 4 anni, per cui mi copre 2 volte il valore del mutuo che io ho sottoscritto. Oltretutto volevo andare un attimino in contraddizione con quello che dicevano gli ospiti, perché quando si sottoscrive un mutuo c'è un'ipoteca sull'immobile, per cui un immobile del valore di 300.000 euro con una sottoscrizione di premio di 75.000 euro, mi sembra che le proporzioni siano un attimino un po' spezionate. Allora Gianfranco, mi aspetti lì, perché lei sicuramente ha posto l'attenzione su altri aspetti che forse ancora non avevamo fatto in tempo ad esaminare. Dottoressa Mazzarella, dice Gianfranco, effettivamente la casa è già ipotecata, per cui comunque c'è già un aspetto di tutela da parte della banca. Guardi, è difficile così rispondere su 2 piedi non avendo sotto mano quelli che sono i contratti che sono stati a suo tempo sottoscritti, quindi bisogna un po' entrare nel merito e capire. Io metterei un po' l'attenzione su questa storia della portabilità. Noi siamo intervenuti proprio per una volta emanate le norme Bersani, per cercare di fare in modo che le coperture assicurative non creassero un ostacolo al trasferimento del mutuo, l'estinzione del mutuo stesso. Quindi abbiamo previsto esplicitamente che in caso di volontà da parte del contraente, dal mutuatario, di trasferire il mutuo, venga restituita la parte di premio non goduta, incluse le provvigioni. Nel caso di trasferimento il contraente ha un'altra opzione, quella di modificare il beneficiario, quindi passando dalla banca A a B il beneficiario diventerebbe, anziché la banca A, al banca B, senza sopportare alcun onere aggiuntivo. No, tra l'altro invece Chiara, sul tema della proporzione della polizza rispetto al finanziamento erogato, anche lì sicuramente chi può dirci qual è il valore della polizza che dobbiamo sottoscrivere rispetto al contratto di finanziamento, rispetto al mutuo, rispetto al valore della casa? Certo che anche lì è un'altra questione di mercato. Certo. No, perché tra l'altro tra un po' interviene anche l'area da Roma, che lo stesso voleva dirci che praticamente le hanno informata sull'obbligatorietà, ancora una volta passata come tale, della polizza da stipulare il giorno prima. Ma come fa una persona a sapere, anche se ammettendo che la banca, perché lo fa anche per questo, lo fa, come dire, con la massima migliore intenzione possibile, perché ci si deve tutelare tutti quanti, la banca e certo, anche noi, certo. Ma l'importo che si propone, chi ce lo, come fanno a dircelo il giorno prima se questo è adeguato anche a tutta l'operazione finanziaria che stiamo mettendo in campo? Certo, lì diciamo l'aspetto che salta più agli occhi è il fatto che l'importo, il premio da pagare sia parametrato non tanto sulle caratteristiche della persona o sul il bene che si vuole proteggere, ma piuttosto sul contratto di finanziamento che è il mutuo. Ce lo facevano notare anche gli esperti che abbiamo interpellato. Certo è che qui vale, diciamo, la vecchia regola del consumatore: confronta più offerte, poi leggi tutte le postille, tutti i vari aspetti del contratto e giudica e valuta con i tuoi occhi. Quindi, insomma, quelli che possiamo in qualche maniera salvare, mi viene un brutto termine, ma educare, se andate a sottoscrivere un mutuo da qui alle prossime settimane, sappiate che questa cosa della polizza, se ancora non ve l'hanno detta, potrebbe saltar fuori. Avete ancora tutto il tempo per poter fare un confronto di mercato e quindi farvi fare anche un calcolo su quello che è il premio corretto da pagare in relazione al valore della casa, in relazione alle vostre esigenze, a quelle della vostra famiglia, in relazione anche al mutuo che poi la banca ci fa sottoscrivere. Allora, sto leggendo anche i messaggi che ci stanno arrivando da parte degli ascoltatori. Salve, mutuo che ho stipulato, ha detto dalla consulente, la polizza era obbligatoria, pena la non concessione del mutuo, perché qualche volta c'è anche questo ricatto. Pago 70 euro circa di premio una volta l'anno, mi sembra anche una cifra abbastanza ragionevole, quindi se sposti il mutuo ad un'altra banca non dovrei perdere nulla, ci chiede l'ascoltatore. Un altro, Andrea: la mia polizza è scritta sul rogito, quindi non si può disdire, quindi è fissata lì. Beh, non sarà fissata con il sangue, Andrea, magari si può fare anche una variazione davanti ad un notaio rispetto a questo, adesso questi magari sarebbero aspetti da approfondire ulteriormente con Busani, non lo abbiamo questa mattina. Nel 2003 non ho voluto sottoscrivere l'assicurazione incendi e scoppio con la banca, ma ho sfruttato quella del condominio vincolandola a favore della banca. Saluti di Andrea da Bologna. E quindi lui ha dato questo suggerimento, se gliel'hanno fatto fare si vede che si può fare. Insomma, ci sono tante testimonianze. Risentirei un'altra persona, Ilaria da Roma. Ilaria. Buongiorno, io a novembre volevo fare una surroga di un mutuo molto basso, esiguo, sotto i 70.000 euro, di una casa che valeva molto di più. E niente, con una banca che noi avevamo già stipulato un mutuo per un'altra prima casa, che cosa è successo? Che il giorno prima di stipulare il mutuo ci chiama il direttore e ci parla di questa polizza. Noi non sapevamo assolutamente nulla. Dopo varie telefonate, il giorno dopo siamo andati lì e ci aveva già detto la sera prima che se noi non stipulavamo più il mutuo, perché a quel punto noi abbiamo detto non lo stipuliamo più perché ci veniva molto più alto, noi volevamo fare una surroga per diminuire la rata. Certo, altro, ecco. E quanto? No, e ci faccia capire, Ilaria, per esempio, rispetto a questo importo richiesto di 70.000 euro. Quello non me lo ricordo, ma era io avrei pagato di più rispetto anche al mutuo che avevo prima, quindi non ci rimettevo a fare la surroga. Però, non so se mi spiego. A corti discorsi, lei, questo direttore, ripeto, noi è una vita che stiamo in quella banca, abbiamo già avuto mutuo, quindi siamo persone che ci conoscono da una vita, ci aveva detto che noi abbiamo detto va bene, non prendiamo più il mutuo con voi. Sapete cosa ci hanno detto? Che siccome loro avevano chiamato il notaio e tutto, avremmo dovuto pagare una penale. Allora noi che cosa abbiamo Io avrei voluto fatto? Proprio vederla questa penale, guardi. No, non lo sai che cosa abbiamo fatto? Noi siamo stati forse svelti, abbiamo detto guardate, noi ci prendiamo due giorni di tempo, oggi non stipuliamo niente, io mi sono informata attraverso altre banche, mi piacerebbe dire il nome della banca perché è una banca molto grande, e ci hanno detto assolutamente no, che non dovevamo pagare nessuna penale, quindi noi non abbiamo più stipulato il mutuo e per fortuna l'abbiamo avuta vista, però perché siamo stati un po' incoscienti, un po' furbi. No, siete stati dei bravi, come dire, consumatori, e comunque, come spesso ci insegnano Marco Fratini e Lorenzo Marconi di Vaffanbanca, la banca non è una chiesa ma un negozio, per cui si può trattare. Ilaria, io la ringrazio molto per la sua testimonianza, che spero sia anche da spunto per altri ascoltatori. Poi peraltro questo comportamento peraltro l'altro attiene anche all'ordine delle pratiche commerciali non proprio corrette, oggetto magari di monitoraggio dell'antitrust più che dell'ISVAP, perché qui è banca, non assicurazione. Chiara, volevi aggiungere certo, qualcosa? Certo, volevo dire che l'ascoltatrice ha fatto bene, ha esercitato i propri diritti di consumatore e vale sempre questa regola, non avere fretta, quindi valutare, leggere bene i contratti, prendere tempo, mai firmare subito. Anche infatti. Perché... Dottoressa Mazzarella, per quello che riguarda il nuovo regolamento che diventerà operativo a partire da dicembre, lei ci ha già spiegato i termini sui quali agirete proprio per fare in modo che tutta la scelta della polizza venga fatta da parte del consumatore all'insegna di un rapporto di massima trasparenza con la banca e quindi con la compagnia di assicurazione, ma per le banche e le compagnie che non ottempereranno rigorosamente ai nuovi standard, che cosa succederà in sostanza? Voi chiaramente li terrete sotto controllo e poi sono previste sanzioni, insomma. Sì, sono previste sanzioni, noi li terremo sotto controllo perché è un argomento sul quale abbiamo puntato, come dicevo all'inizio della trasmissione, il faro da un po' di tempo, quindi ormai sappiamo quelli che sono gli operatori principali del mercato e andremo a vedere, ci faremo dare le condizioni contrattuali per vedere come sono state scritte. E ritorno di nuovo sulla questione, è necessario farsi dare dalla banca quelle che sono le caratteristiche delle coperture richieste, tanto da poter andare in giro e confrontare quelli che sono i costi di queste coperture e le provvigioni percepite dall'intermediario. È necessario fare questi confronti, leggere bene le condizioni contrattuali per arrivare poi a stipulare e chiudere la polizza più adeguata rispetto alle proprie esigenze. Io mi rivolgo anche ai direttori di banca in questo momento, perché abbiamo avuto tante volte modo di interagire anche con loro, perché chiaramente non è che mi piace fare delle trasmissioni per scagliarmi a tutti i costi nei confronti di questa categoria, perché ci sono tante bravissime persone che operano nella completa disponibilità nei confronti della clientela, però voglio dire, dirlo il pomeriggio prima in questa maniera che proprio sembra un ricatto e dirlo 10 giorni prima in maniera totalmente trasparente alla propria clientela, convincerla magari della validità del prodotto che gli si vuole far sottoscrivere, io credo che questo cliente lo si mantiene poi per sempre in un ottimo rapporto, non capisco per quale motivo non si scelga questo modo di agire piuttosto che il primo. Chiara, stiamo concludendo la nostra trasmissione, peraltro non riesco neanche a sentire Giuseppe da Genova. Giuseppe, ci scriva, le risponderemo in privato. salvadanaio@radio24.it. Chiara. Abbiamo visto che molte banche hanno fatto delle offerte di prodotti assicurativi abbinati a mutui anche una sorta di pratica commerciale, quindi ti propongono uno sconto sullo spread. Dobbiamo dire che in alcuni casi questo avviene effettivamente ed è possibile pagare meno la rata, in altri casi come il risparmio sullo spread viene trasferito sul premio, certo, per l'assicurazione. In altri casi invece, come hai evidenziato infatti una prova sul campo di altro consumo, non è proprio così, quindi anche in questo modo verificare, confrontare e fare bene i propri calcoli, quindi calcolatrice alla mano e piani di ammortamento. Quindi l'obbligatorietà di sottoscrivere queste polizze non esiste però l'obbligo di tutelare la nostra famiglia e di tutelare il nostro ambito familiare da eventuali imprevisti che nella vita possono capitare, per cui una polizza ben sottoscritta e naturalmente di cui si conosce tutta la dinamica, tutto il funzionamento, è comunque un prodotto che ci tutela. Adesso non demonizziamo assolutamente questo prodotto, perché c'è un mercato enorme in Italia, molto valido, per cui l'importante è scegliere il prodotto che fa al caso nostro, che è pertinente al nostro investimento, alla nostra casa, alla nostra famiglia. Grazie Chiara Bussi, ci rivediamo. Buongiorno, presto per un'altra guida. Grazie dottoressa Mazzarella per essere stata con noi, a presto. Buona giornata, a presto. Io ringrazio anche Gaia Romani per la collaborazione in redazione, oggi Fabio Cantadore in assistenza tecnica, torniamo domani con lo Yuan, con tutti i movimenti sulle valute degli ultimi giorni, buona giornata.